radiation, radiation. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Metal Zone, ancora mercoledì, sempre Metal Zone, questa sera con uno spin-off, con me un ospite veramente gradito, un carissimo amico, come Giuseppe. Buonasera a tutti i nostri amici connessi su Radio Action, questa sera vi terremo un po' compagnia con un po' di musica e se vorrete ascoltarci saremo lieti. Buonasera. Questa sera, come appunto ho detto, Peppino vuole parlare con noi di un gruppo che, devo dire, ha influenzato moltissimo anche la mia adolescenza. Infatti stavamo parlandone prima. E questa sera vogliamo parlare degli Offspring, un gruppo musicale punk rock statunitense che si forma a Garden Grove in California nel 1984. Avranno veramente un successo strepitoso nel corso degli anni, tanto da essere messi insieme, molto spesso citati, con i Green Day, i Blink 182 e ovviamente i Rancid, che sono i promotori del punk rock dopo i Sex Pistols, ovviamente tutta l'ondata punk british di cui siamo veramente innamorati. Perfettamente ragione Giovanni, come diceva, stiamo parlando degli Offspring, un bellissimo gruppo punk rock dove ci ha accompagnato per la nostra adolescenza e che adesso faremo ascoltare alcuni dei loro brani, partendo con i primi due album. I primi due album degli Offspring sono abbastanza autoreferenziali, perché sono degli album veramente grezzi, rudi, abbastanza sporchi come sonorità. E fanno il loro primo EP dopo che i componenti della band, che voglio ricordare che sono sono Dexter Holland alla voce, bassista Greg Kay e ovviamente uno dei migliori chitarristi secondo me di tutta la scena punk rock dell'epoca, ossia Kevin Wasserman. E poi successivamente si aggiunge un altro personaggio che poi sarà emblema proprio della band, ma ne parliamo dopo in particolare, perché Noodles secondo me ha un valore aggiunto nella band proprio perché portava la birra ai ragazzi, che e non solo, era anche il bidello nella scuola che hanno frequentato appunto Dexter Holland e il batterista. Gli faceva da padre praticamente. Un padre veramente generoso, visto che comprava loro la birra, come ho detto. Ma bando ai discorsi e sentiamoci subito da The Offspring, Tehran e Black Bull, che saranno veramente due belle canzoni che li faranno conoscere e quindi subito scritturare con un'etichetta, e Ignition, che poi sarà il loro primo album in studio. Cominciamo con The Offspring. Vi ricordo che loro sono gli Offspring e che questa è Metal Zone. I don't know why. E torniamo live, una puntata veramente ad alta velocità questa, di questa sera. E torniamo nell'aprile del 1994, quando gli Offspring rilasciano il loro album veramente non plus ultra, perché questo album, a parte che era una band che comunque non era sotto contratto con una major proprio fortissima, distrugge tutto e vende oltre 11 milioni di copie, quindi un album veramente, anche questo, da tenere in qualsiasi collezione, assolutamente, è da sentire dall'inizio fino alla fine. Ma Giuseppe, come è stato descritto Smash? Smash, come diceva, è stato descritto come un concentrato di divertente punk rock caricato con riff metal e con lenti tempi hardcore. Uno degli album, come diceva Giovanni, che sono tra i più importanti che ci siano sulla scena punk, e infatti una rivista inglese lo colloca al 54esimo posto su una classifica di 100 da ascoltare come album prima di morire. Pensa te. Un album veramente epico, potrei dire. E un album che li fa affermare come veramente portatori di un punk rock completamente alternativo e come piace a noi, con una bella botta di metal dentro quando è possibile. Fatto sta che 3 anni dopo rilasciano ancora un altro lavoro dal titolo Ixnay on the Ombre. E nonostante ci sia stata questa onda di successo di Smash in precedenza, vende molto di meno e raggiunge solo la posizione numero 9 nella Billboard 200. Anche perché è molto più complesso, ma molto più pieno di pop punk. Quindi noi ci andiamo ad ascoltare assolutamente da Smash 4 canzoni fantastiche, te le faccio dire a te, guarda. Sì, partiamo con Bad Habit, Gotta Get Away, Come Out and Play e Self History. Invece da Ixnay on the Ombre sentiremo The Meaning of Life, Cool to Eat e All I Want. Vi ricordo che loro sono The Offspring e questa è Metal Zone. try to keep them separated. Separated. Hey! The man you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, hey, you don't mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come on and play. La la la la la la la la la. E torniamo live dopo questa imbottita proprio gagliardissima di punk, velocissima. E continuiamo con la storia musicale degli Offspring. Arriviamo nel 1998, dopo appunto il successo di Ixnay on the Ombre, e c'è veramente un cambiamento radicale all'interno della band. Cosa ne pensi tu, Giuseppe? Sì, con Americana possiamo dire che gli Offspring, diciamo che suscitano anche un po' di critiche, perché diciamo che alcuni fan di vecchia data, anche come me, praticamente ritengono che sia un album un po' commerciale. Però su questo non c'è, possiamo dire che comunque hanno avuto un grandissimo successo anche con questo album, nonostante qualche critica. Infatti si collocano al 20° posto nella classifica dei 50 migliori album punk. Poi hanno fatto molti live in cui sono stati molto agli MTV Music Award nell'edizione a Dublino, e poi sono stati a Woodstock nel 99 e sono anche a Roma, hanno suonato da noi in Italia. Peccato, perché noi eravamo molto piccoli a quell'epoca e non siamo potuti partecipare, vero Giovanni? Io avevo 16 anni, quindi non credo potevo andare a fare un concerto a Roma al Woodstock 99 degli Offspring, forse non sarei tornato mai più a casa. Sì. Però continuiamo, perché dopo appunto l'uscita di Americana, che è stato veramente tacciato di molta commercialità, e succede che rilasciano un altro album, ossia Conspiracy of One, che da un lato viene preso come veramente una significativa maturazione della band, volendola porre in termini assolutamente positivi, dall'altro lato non porta nulla di nuovo, e quindi si sentiranno solo gli Offspring contaminati, che abbiamo apprezzato. Però secondo me, a me piace Americano, ed è stato un album che mi è stato regalato al mio compleanno, quindi ci tengo particolarmente. Confermo, un album molto ascoltato anche da me, anche perché era proprio la nostra epoca, l'adolescenza. E voglio anche approfittare, perché fra queste canzoni voglio dedicarne una a Salvatore Trivelli, che so che ci sta ascoltando ed è attento a sentire. Il nostro Salvatore. Gli dedichiamo The Kids Aren't Alright. Vi ricordo che loro sono gli Offspring, e questa è ancora Metal Zone. We'll be right back. dodging bullets while you're trying to find your way. Everyone's around but no one does a damn thing. It brings me down, but I won't let them. If I seem vague, well, you speak correct. And if I don't speak, it's cause I can't disconnect. But I won't be burdened by the reflection of a fire in your eyes. As you stare at the sun, oh, oh, oh. As you stare at the sun, oh, Globin. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't think fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight up, feel, keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you just work here, but I wanna fuck you. Knock down the walls. It's alive in you. è di nuovo live. Sicuramente le canzoni che abbiamo ascoltato le avete sentite, sicuramente le avrete viste in televisione, perché erano veramente passate tantissimo da MTV, e i video degli Offspring erano veramente dei bellissimi video, specialmente quello di Pretty Fly for a White Guy, che rimane nella storia come un concentrato di trash quasi, però che rende abbastanza l'idea. In seguito, appunto, a Conspiracy of Wise, Conspiracy of One, il batterista Ron Welty abbandona la band per un progetto parallelo, ossia gli Steady Ground. Quindi questa uscita di Ron Welty dal gruppo dopo 15 anni di lavoro che aveva passato con gli altri della band fa fare un passo importante agli Offspring, che trovano un altro batterista, ossia Atom Willard, che lavorerà con loro. E quindi, a parte una piccola querelle, che è uno scherzo che è stato fatto da Dexter Holland a Axl Rose dei Guns N' Roses, infatti lui voleva chiamare questo album, di cui ci accingeremo a sentire due canzoni, voleva chiamarlo Chinese Democracy, come una canzone dei Guns N' Roses. In realtà l'album si chiamerà poi Splinter, e tutto questo è stata fatta una montatura, ma Axl Rose ha preso la cosa un po' troppo seriamente. Quindi registrano questo album, che è ancora molto pervaso da sonorità pop rock. Quindi, Giuseppe, cosa ascoltiamo? E dall'omonimo album Splinter andremo ad ascoltarci It Dead e Da Ui. Buon ascolto. Metal Zone. I won't take up on doing. torniamo live per l'ultimo break di questa sera, di questo spin-off energetico, direi, con gli Offspring, insieme a Peppino. Torniamo al 2007, perché la band subisce vari cambi ancora alla batteria, non riesce a trovare più un equilibrio, e questo lo si nota, perché gli ultimi due album che andranno a fare sono due album che veramente hanno una qualità un po' deludente, perché non sono più gli Offspring di una volta. I vecchi nostalgici, fan storici della band, ancora cercano di salvare e giustificarli dicendo che comunque producono delle ballate e che quindi si ritornano un po' a quel punk vecchio stile, ma devo dire la sincera verità, a me questi due album non convincono assolutamente, anzi secondo me era meglio non ascoltarli proprio. Fatto sta che dobbiamo, per onore di cronaca musicale, quello che stiamo facendo stasera, appunto la cronistoria degli Offspring, ma prima di arrivare a sentire queste ultime due canzoni, come al solito e come ogni mercoledì, parte la nostra sigla. Radiation. Consueto momento dei ringraziamenti, voglio ringraziare la Prologo che quest'anno ci ospita. Siamo a Via Roma, quando volete venire siamo qui ad aspettarvi a braccia aperte. La famiglia di Radiation è qui per voi e per farci ascoltare e per ascoltarvi soprattutto. Vi ricordo di cercarci su Facebook cercando Radiation Web Radio e su Spreaker cercando solo Radiation. Potete ascoltarci in podcast quando, come, dove e con chi volete. E volevo salutare anche Giuseppe per la scelta veramente azzeccata, secondo me, di stasera, perché c'era bisogno di un po' di movimento nella Metal Zone. Sì, come diceva Giovanni, abbiamo fatto questo viaggio punk con gli Offspring e siamo giunti alla fine. Un saluto anche da parte mia e un piacere è stato stare qui in Radiation con il mio amico Giovanni. Ci rivedremo sicuramente, perché ci saranno altre puntate che faremo insieme, assolutamente. Quindi vi lasciamo a queste ultime tre canzoni, ossia dall'album Rise and Fall, Rage and Grace del 2008, sentiremo Hammerhead, e dall'album, l'ultimo album ancora in attivo che è stato fatto, non è stato fatto nient'altro, ossia Days Go By, sentiremo The Future Is Now e Dividing by Zero. Vi ricordo che loro sono stati gli Offspring e vi ringrazio per essere stati nella Metal Zone.